Occhio e Croce. Occhio e Croce Veronica non è a conoscenza delle critiche rivolte alla psicoanalisi. Ignora quanto ha detto Krauss fin dai primi anni del Novecento, che la psicanalisi è la malattia di cui si crede la cura, ignora come siano state annichilite le sue pretese di scientificità già in un convegno del 58 organizzato dalla New York University, ignora le acute analisi di Mikkelborg Jacobsen con cui ha smontato il caso di Anna O, la prima bugia della psicanalisi. Ignora le molteplici critiche di Luciano Mecacci a partire dalle ambiguità del caso di Marilyn Monroe per finire alle mistificazioni con cui è stata raccontata la storia dell'uomo dei lupi. Ignora l'alto tasso di suicidi tra gli psicanalisti e i tanti casi in cui, contraddicendo lo statuto deontologico professionale, psicoanalisti maschi sono finiti a letto con le loro pazienti femmine, e ignora anche il libro nero della psicanalisi recentemente pubblicato in Francia. E nonostante sia mia nipote, Veronica ignora anche i miei scritti in materia, tutti tesi a dimostrarne l'inconsistenza metodologica nonché la funzione ideologica subalterna agli equilibri del potere. Non a caso c'è una certa acquiescenza nei confronti del nazismo sia da parte di Jung che da parte di Freud. Presumibilmente Veronica non ne sa nulla, perché ha compiuto un anno il 28 ottobre scorso. Tuttavia, l'altra sera, allorché ci siamo seduti sul divano di fronte alla televisione accesa, lei appariva tranquilla come un papa col suo bel ciucciotto in bocca, mentre io mi dannavo l'anima azionando il telecomando in cerca del paradiso perduto, ovvero di qualcosa di televisivamente, diciamo, appena commestibile. Ma ad un certo momento, come fosse l'ora delle decisioni che contano, Veronica si è girata verso di me e perentoriamente ha indicato il telecomando e ha allungato la manina destra. Potevo forse rifiutarle qualcosa. Più che averglielo dato, se l'è preso. Poi è stata questione di un attimo. Con la sinistra si è tolta il ciucciotto di bocca, me l'ha consegnato, si è girata verso lo schermo ed ha cominciato ad armeggiare felice. Esuegua, povero Freud, piove sul bagnato.